Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Abbiamo già sentito anche il secondo spezzone di War Games, che è il film della settimana, secondo spezzone che ha aperto quella che è la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. War Games, film del 1983 di John Badham con Matthew Broderick, forse il primo film sugli hacker, perlomeno il primo film di un certo successo. Sempre pronto a ricevere ulteriori precisazioni o smentite da parte vostra, giulio@radiorockfm.com, nel caso le abbiate a disposizione. Poi siamo subito passati a Jody Wild Goose, il mio artista del momento. Pop Music è il brano che vi sto facendo ascoltare, ma però prima della fine di questa stagione di Eclettica vi prometto che vi farò ascoltare qualche altra traccia da questo suo secondo disco. Ci trasferiamo dall'Inghilterra all'Irlanda, terra da cui proviene Fionn Regan, che però incide per l'inglese Bella Union. Fionn Regan, giovanissimo artista irlandese, con The End of History, disco che è stato protagonista anche di Pillola di Eclettica settimana scorsa, esattamente con il brano che ci stiamo per ascoltare, Hunter's Map. Fields Was that fox caught in that trap laid with hunter's mouth? When the cloud rolls back, back, back, I'll meet you by the mill. Depression's in your neck. He's just keeping you in check. Was that fox caught in that trap laid with hunter's mouth? When the cloud rolls back, back, back, I'll meet you by the mill. You shake hands with lightning for an apple on a string. You shake hands with lightning for an apple on a string. Notizia di cronaca riportata dal settimanale Enterprise di Westover, Maine, il 19 agosto 1966. Pioggia di pietre. Ci viene riferito che una pioggia di pietre è caduta dal cielo perfettamente sereno su Carlin Street, nella cittadina di Chamberlain, il 17 agosto. Diverse persone ne sarebbero state testimoni. Le pietre sono cadute sulla casa della signora Margaret White, rovinando gravemente il tetto e sfondando due grondaie e un tubo di scolo per un danno di circa $25. La signora White, vedova, abita nella casa di Carlin Street con la figlioletta di 3 anni, Carrie. Non si hanno commenti diretti perché non è stato possibile avvicinare la signora White. Nessuna delle ragazze fu realmente sorpresa quando accadde. Non realmente, non nel subconscio dove allignano le cose oscure. In superficie, le ragazze nella sala delle docce erano eccitate, sconvolte, indignate, disgustate o semplicemente contente che quella merdosa della White l'aveva presa in quel posto un'altra volta. Questo era l'incipit di Carrie di Stephen King. Just flew in. Debbo sicuramente prendermi qualche secondo per riassumervi quello che vi siete appena ascoltati e quanto vi state per ascoltare, il tutto intervallato dal secondo incipit della settimana di Stephen King, che avrete sicuramente capito, è l'artista che, vista la mole di libri che ha scritto, caratterizzerà anche le due restanti parti. Partiamo dall'inizio non della trasmissione, ma dei brani che vi siete ascoltati che ancora non sono stati annunciati. Un nuovo disco per Wichita Recordings, disco che proviene dalla città di Philadelphia, Trio, un trio folk di nome Espers, uscito con un disco dal titolo semplicemente Espers 2. Widow's Weed è il titolo del brano e loro prendono come punto di riferimento, udite udite, un gruppo che ai tempi di Profumo di Vinile, quando ancora Profumo di Vinile caratterizzava questa trasmissione, era stato oggetto forse più di una volta di attenzione. Sto parlando della Incredible String Band, quindi riconfermo il termine folk che prima ci siamo detti. Poi, come ho detto anche in occasione della trasmissione della pillola del brano in questione, Frank Black, nonostante i Pixies siano ritornati, va avanti con la sua carriera solista, un nuovo album per Cooking Vinyl, Fast Man Rider Man, album che non è che aggiunga molto alla sua carriera, se non un'indicazione di costanza e, diciamolo, sì, di buon livello medio. In The Time of My Ruin è il brano che ci siamo ascoltati. Ora passiamo all'Italia, uno dei dischi Ultovox che ci siamo ascoltati ultimamente, una band che dopo aver esordito negli Stati Uniti esce appunto per la label toscana, In the Land of the Sun, il titolo dell'album dal quale ci ascoltiamo The Hard Ground. Always turned around. non ce li siamo appena ascoltati e non ce li stiamo per ascoltare, ma ricordatevi che questa è la settimana dei Flaming Lips e dei biglietti per il concerto del 1 luglio a Ferrara e del 3 luglio a Roma dei Flaming Lips, per cui scrivere a giulio@radiorockfm.com. Chiudiamo questa seconda parte di Eclettica con i Vetiver. Beh, dietro ai Vetiver c'è Andy Kebik, a tempo pieno, membro effettivo della band di Devendra Banhart, nei ritagli di tempo, solista con questo pseudonimo di Vetiver, che poi nasconde anche una band dietro cui lo stesso Devendra ogni tanto si impegna, anche per esempio in To Find Me Gone, il disco uscito per la Fat Cat il 5 di giugno, dal quale noi ci ascoltiamo la traccia Been So Long. E così si chiude la seconda parte di Eclettica della settimana. Can't believe that you're knocking on my door. Oh, it's been so long, been so long. Fate has a way of showing I'm where you belong. Oh, it's been so long, been so long. Eclettica, fine della seconda parte.